chiacchiere di mercoledì scorsi sono coincisi con le sacrosante manifestazioni a sostegno della Palestina. E prima di noi ci stava un ottimo Eugenio Finardi dannata, la chitarra di Alberto Camerini. Adesso è il tempo dunque di prove tecniche di trasmissione, adesso sino alle 22.30, ma è auspicabile che potremmo anche recuperare qualche minuto oltre l'orario canonico di chiusura. Saluto Like Wake e Anna qui a Roma, Maya in Umbria, Massimo Santoro a Torino. La Death in Venice con Eugene Vintras, Massimo Santoro l'abbiamo già detto. Abbiamo progetto sonoro con Marco Magia. Peter Crosthwaite, Giulio, Ernesto Darfonex Galli e Giuliana qui a Roma. Un saluto anche a Tabula Rasa, anche se lui andrà ad usufruire del podcast che domani comparirà puntualmente sia qui e sia anche sul sito di Radio Onda Rossa. Andiamo a riprendere questa opera che esce attraverso la Next Play Sounds di Raffaele Pezzella e anche la Dissipazio, un'etichetta fondata da Nicola Quiriconi, dunque due grossissime realtà italiane. 400 Lonely Things è il nome di questo progetto e l'album in questione è Subdivisions. Ci andiamo ad ascoltare Ravensbeck Reclouded. Don't forget your keys. Thank you. Bene, abbiamo iniziato or dunque da questa collaborazione tra etichette, la Dissipazio e la Anesplay Sounds Group. 400 Lonely Things Subdivisions, un suono molto più classico di riferimento rispetto alla Dissipazio, tra IDM e ambient, a tratti diafano, a tratti inquieto. Peraltro la stessa Nesplay Sounds Group si è aperta a questo tipo di sonorità, ne è testimonianza per esempio la compilation 3.0 che presto ci ascolteremo. Questo progetto esiste in realtà dal lontano 1988, prima era in forma di duo, ultimamente, negli ultimi anni invece, è ad appannaggio dell'unico Craig Varian. Suoni a loro modo lisergici e psichedelici. C'è anche un po' di Aphex Twin qui e là in questo album. Adesso uno stacco netto e si torna indietro di molti molti anni, circa 25 anni, per andarci ad ascoltare l'unico album stampato dagli ungheresi Scivias, che porta il nome di And You Will Fear That Not, un album che ho trascurato in maniera colpevole in questi anni, anche perché poi era effettivamente difficile reperirlo, e di questo devo ringraziare Ernesto e Giuliana che hanno, diciamo, messo la loro disponibilità nel correggere questa mia mancanza. Quindi adesso abbiamo finalmente questo lavoro che si muove tra Martial, Industrial, sprazzi di neofolk e anche di sperimentazione. E questa sera ci andiamo ad ascoltare la breve The World is a Teardrop e poi Breathing Deeply e The Peach Boy. Bármit álmodatok. A tratti anche ieratico, se vogliamo, questo lavoro di Sivias. Egy nap az ördög serege ismét betört a szigetre. Torony építéséhez fogott. Lo ricordiamo, And You Will Fear That Not del 2001, che uscì per la Heiß und Licht. Il primo dei due album, il secondo uscì nel 2004, due tracce lunghe, un totale di circa 35 minuti, dal nome Strong Panid. Bello anche di tanto in tanto sentire un idioma meno noto rispetto a classico inglese, tedesco, francese o italiano, infatti l'ungherese è la lingua con la quale si esprimono gli Sivias. Un passaggio per loro lo avremo anche il prossimo mercoledì. E intanto vado a salutare Jean-Claude Oberto, che ci sta ascoltando dalla Val d'Aosta. Un altro, diciamo, viaggio nel mondo degli Swans attraverso Bething, l'ultima loro fatica, anche questa del 2025. Le lunghissime tracce di psichedelia rumorista classica della seconda fase artistica degli Swans. Anche la traccia omonima, Birthing, dura ben 22 minuti e quindi saremo costretti a dividerla quantomeno in due parti. Ci ascoltiamo dunque almeno una decina di minuti di questo Birthing. chiama Birthing, la spasmodica psichedelia degli Swans. Ultimo lavoro uscito nel 2025. Andiamo a salutare Arianna Degni Lombardo e Nicola Locci. Come ho detto, una traccia di ben 22 minuti. La seconda parte ce lo ascolteremo la prossima settimana. E torniamo in Italia e lo facciamo con La Porta Ermetica, un mega progetto con Claudetti, Claudio Giammarini, Elisa Pambianchi, Adriano Vincenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte, Davis Granziera del Teatro Satanico. E da pochi giorni è uscito anche un album. Invece noi concentriamo la nostra attenzione su un EP, anche questo uscito abbastanza recentemente, che contiene anche una versione particolare uscita inizialmente anche su nastro, su cassetta, della Bugia, che è appunto il nome di questo EP. Una traccia intensissima con un'altrettanto intensa Elisa Pambianchi alla voce.